ma adesso dobbiamo dare la parola all'autrice Cecilia Impera, che tra l'altro forse vorrà anche difendersi, perché è stata anche toccata in alcuni punti, quindi piena libertà di parola a lei. Grazie. Avrete avuto l'impressione che si tratti di un testo molto difficile. Lo è un poco, però non è molto difficile. Bisogna leggerlo certamente con molta ponderazione, con molta calma e con molta riflessione. Non è un romanzo che si possa leggere così, facilmente. Esige molta attenzione e molta concentrazione, perché i testi in due sono estremamente difficili. Io ho studiato degli anni per capirli. Ci ho studiato per anni e anni, ho dovuto consultare moltissime persone e soprattutto moltissimi commenti che ho citato anche abbastanza ampiamente in questo testo, perché appunto sono testi che si prestano a interpretazioni molto diverse e quindi vogliono un'attenzione particolare e una capacità di critica abbastanza aperta, chiara, altrimenti si rischia di fare delle grandi confusioni. Perché ci sono dei testi molto contraddittori. Ci sono dei testi che dicono bianco e ci sono dei testi che dicono nero. Quindi bisogna stare attenti a trovare un equilibrio fra le varie soluzioni che sono proposte. Dicevo, le cose sono ancora molte, però io mi fermerei su pochi aspetti che già sono stati trattati dal professore, ma vorrei forse integrarli. Anzitutto il karma samsara, perché è vero che mi sono un po' ossessionata, sì, perché è una cosa tremenda, perché bisogna sentirlo da loro come lo vivono. Ecco, la differenza fra chi solo studia e chi studia e insieme fa esperienza è notevole, perché quando si vede come loro vivono la loro dottrina, come loro la sentono, allora si capiscono molte cose di più di quel che non si capisce solo leggendo dei libri. Cioè, per loro il karma è veramente un'angoscia. Cioè, il sentirsi gravare sulle spalle tutto il loro passato. Centinaia e centinaia di vite precedenti pesano sulla mia vita attuale. Io porto il peso di tutte le mie vite passate. Quindi, io sono quello che mi sono creato io con le mie mani. Quando si parla di libertà, loro rispondono sempre, senza equivoci, rispondono che l'uomo è il solo responsabile della sua situazione, l'uomo è l'artefice del suo destino. E questo in gran parte è vero, perché la mia vita di oggi è il risultato delle mie azioni di ieri, delle vite passate. Se ho vissuto bene, la mia vita di oggi sarà buona. Se ho vissuto male, la mia vita di oggi sarà cattiva. Quindi io mi porto tutto questo peso che può durare per centinaia o migliaia di vite, che si riproduce continuamente, finché non ho esaurito tutto il male che ho fatto, oppure non ho esaurito tutto il bene che ho fatto, cioè non ho potuto tutti i benefici del bene che ho fatto nelle mie vite precedenti. Ma questo da chi è regolato? Da che cosa è regolata questa legge? È una legge impersonale, una legge meccanica, però secondo loro una legge infallibile, una legge che non può sbagliare e che attribuisce ad ognuno la responsabilità delle sue azioni. Ognuno riceve sicuramente, senza possibilità di errore, il castigo che ha meritato per le sue opere cattive o il premio per le sue opere buone. Ma lo riceve attraverso questa forma assolutamente impersonale, non c'è un Dio alle spalle, e questa è la difficoltà, almeno per noi, di capire. Questa legge impersonale che opera in maniera sicuramente giusta, sicuramente infallibile, a cui nessuno può sottrarsi, nessuno sfuggirà a questa legge, non si può fare un'azione di nascosto, perché tutte le azioni che si fa castigo a seconda se sono state buone o cattive. Quindi io per secoli, secoli, secoli mi posso continuare a portare dietro il peso delle mie azioni, delle azioni compiute. E finché non ho estinto questo debito del karma, finché non è estinto, io non potrò essere liberato. E quindi questa cosa grava su di noi in una maniera tremenda. Cioè questo susseguirsi ininterrotto di vite, determinato da questa legge karmica, che mi stabilisce tutto, stabilisce la mia nascita, la posizione sociale, la mia appartenenza a un popolo, a una razza, a una casta, le qualità della mia anima, le mie doti, tutti gli avvenimenti che mi accadranno nella vita, la malattia, la morte, tutto è stabilito dal karma che è basato, fondato sulle mie azioni precedenti. Quindi non c'è modo di sottrarsi a queste leggi, non è possibile sottrarsi. E quindi è evidente che per loro questa cosa crisi non viene tremenda. Ed è molto importante, lo sottolineo, perché le Upanishad, di cui già il professore vi ha parlato, ma su cui vorrei ancora tornare, si fondano proprio su questa premessa. È da questa premessa che nasce questa volontà di liberazione, per come liberarsi da questo incubo. Io ho sentito in loro questo incubo, non è mio, non è una mia personale opinione. Io l'ho sentito nei loro discorsi, che si dovrà rinascere, ancora la malattia, ancora la fatica, ancora il dubbio, l'angoscia, l'ansia che la vita porta con sé, ancora le prove della vita, di nuovo, da capo, per centinaia di anni, per sempre, è un'angoscia. L'ho visto scritto, ma l'ho sentito soprattutto da loro. Quindi è evidente che la filosofia assume da questi punti davanti, assume questo carattere di liberazione. Tutte le filosofie indiane, tutte, senza esclusione, da un certo punto davanti diventano teorie della liberazione. Come uscire da questo carcere, come uscire da questa ossessione, insomma, che ci condanna a portarci dietro per sempre questo peso. Non esiste perdono, non esiste possibilità di riscatto, bisogna pagare quello che il karma ci impone. Questo ha conseguenze gravissime. Sono state qui nel testo le esaminate una per una con tutti i pro e i contro, sentendo anche le opinioni dei vari interpreti. Adesso non li posso riportare perché se andiamo avanti fino a domani, ma mi importa dire che ci sono opinioni diverse, ma che sostanzialmente questa legge del karma samsara è la legge fondamentale dell'induismo. Cioè l'indù, come diceva bene il professor Terin prima, è un contenitore, dicono spesso loro, non è un contenuto, ma un contenitore, cioè contiene infinite cose. Ci possono stare tutte le opinioni, ci possono stare tutte le dottrine, però questa è comune a tutti. Cioè tutti credono nel karma samsara. Samsara poi vuol dire corrente continua, quindi svolgersi continuo di queste vite in questo modo, governate da questa legge. Allora come nasce la ricerca della liberazione? Nasce soprattutto nell'Upanishad, il testo che già il professore vi ha ricordato, che è certamente il testo fondamentale, più significativo, più rappresentativo dell'anima indù, perché mostra proprio questa ansia, proprio c'è un'ansia profonda di uscire da questo cerchio, insomma, che ci stringe come una specie di morte, insomma, di cerchio di morte che ci costringe a continuare a rinascere e anche a morire. Rinasciamo e moriamo. Quindi dicono, questa non è immortalità, il prolungarsi della vita sulla terra non ha niente a che fare con l'immortalità, l'immortalità è ben altro. L'immortalità vuol dire una vita senza problemi, senza ansie, senza angosce, senza morte, mentre il ripetersi della vita sulla terra non è certo un'immortalità. E quindi bisogna uscire da questo incubo. Le Upanishad nascono quindi proprio da questa preoccupazione di liberarsi. E quindi è evidente che impostano tutta la vita sull'ascesi, anzitutto, di cui già il professore mi ha parlato, ci sono moltissime forme di ascesi, adesso su questo non ritorno, c'è un'ascesi molto molto seria, molto profonda. vuole persino spegnere il desiderio della vita. Finché noi non abbiamo spento il desiderio della vita, non avremo possibilità di essere liberati, perché come già vi è stato detto, il desiderio della vita mi lega di nuovo alla vita terrena, ogni desiderio mi lega alla vita. E quindi ogni volta che io mi lego alla vita, mi costringo a rinascere, sono costretto a rinascere, perché è un desiderio che mi incatena al mondo sensibile. Tutto ciò che mi lega al mondo sensibile mi costringe, mi obbliga alla reincarnazione, non c'è che distanza. Allora bisogna liberarsi dal desiderio, bisogna liberarsi dal piacere, dalla ricerca del piacere, bisogna desiderarsi e liberarsi da qualunque forma di attaccamento, di qualunque genere di specie. Quindi è evidente che per arrivare a questo punto ci vuole una scelta durissima. Durissima, veramente, anche direi molto più dura di quelle che praticavano i nostri padri del deserto, padri cristiani, voglio dire, dei primi secoli cristiani, che pure avevano una scelta durissima, ma questa veramente le supera tutte. E c'è questa, alla base di questa ascesi c'è evidentemente una visione molto pessimistica della vita. La vita è molto dura, la vita è fatica, ma soprattutto è inganno. Quello che angoscia l'indù è il fatto che siamo soggetti all'inganno. I sensi ci ingannano, quindi siamo continuamente soggetti all'illusione. E non riusciamo a liberarci dall'illusione che i sensi ci provocano. E l'illusione che cos'è fondamentalmente? Quella che chiamano l'illusione cosmica. L'illusione che il mondo sia reale. Questa è l'illusione prodotta dai sensi. Ma se noi riflettiamo un po', come facciamo a dire che sia reale questo mondo che è destinato a scomparire? Come possiamo dire che sia reale la vita che è come una tela di rame che può scomparire da un momento all'altro? Quindi i sensi ci danno. E ci mettono in una situazione di illusione permanente. Finché noi non usciamo dalla sensibilità, non usciremo dall'illusione, non usciremo dall'errore, non usciremo dall'inganno. Allora la scelta deve essere durissima, per questa ragione. E deve cominciare dalla vita concreta, pratica. Vi ho illustrato alcuni stadi che sono molto severi. Il primo stadio dello studentato è terribile. Non esiste da noi, adesso in realtà non a quel livello lì non esiste più nemmeno in India, esiste solo come ricordo, come aspirazione, come modello, ma in realtà a quel livello non lo si vive più nemmeno in India, però è importante che sia scritto, perché si capisce qual è questa ansia di uscire da questo mondo. Io ho scritto, ho scelto come sintesi di questa cosa una breve frase che è stata scritta qui e che l'ho messa intenzionalmente perché mi pare che riassuma molto bene, perché dice: l'esistenza individuale è illusoria, è destinata a scomparire, proprio la mia esistenza individuale, destinata a scomparire grazie a una durissima ascesi che conduce l'uomo a spegnere in sé persino l'innato e insopprimibile desiderio della vita. Bisogna arrivare a questo punto. E a questo punto gli indù pensano che l'iniziale pessimismo, il giudizio pessimista che danno sulla vita, che potrei leggere alcune citazioni che sono molto forti, adesso vorrei di passare i limiti del tempo, in cui appunto si dice che cos'è la vita, insomma, come loro la sentono, la vivono, insomma, con una grande sciagura. Una sciagura da cui appunto bisogna liberarsi. E questa liberazione appunto che posa su questa ascesi così dura, però non trova nell'ascesi ancora la soluzione, cioè l'ascesi non è la soluzione definitiva, è il primo passo. All'ascesi deve seguire la mistica, e in questo ambito della mistica ci sono certamente delle cose molto belle, molto significative, molto importanti, su cui bisogna riflettere molto, perché anche questi stadi della vita mistica sono molto descritti con molta attenzione e soprattutto sulla base di esperienze. Non sono inventate, sono esperienze di questi uomini saggi che hanno tentato questa via della rinuncia per raggiungere la vita mistica. passa dalla concentrazione attraverso la meditazione, ma la meditazione vuol dire, per esempio, 11 ore di meditazione al giorno che usi in una grotta, questo magari per anni, decenni, cioè non è una meditazione così di un quarto d'ora, di una mezz'ora in cui si pensa qualche cosa, insomma. No, è una riflessione che viene sempre guidata da un maestro e che può durare ore e ore e ore e si prolunga per anni e anni. Solo attraverso anni di meditazione possiamo raggiungere questo distacco dal mondo. Riflettendo continuamente sulle realtà eterne, sulle realtà divine, diciamo, possiamo distaccare la nostra mente, la nostra sensibilità dal mondo terreno che ci circonda e possiamo sottrarci a quella famosa illusione, perché meditando sull'eterno ci rendiamo conto che il mondo non è eterno, cioè che è finito, passeggero, e quindi non possiamo dirlo reale, proprio perché non ha consistenza. Destinato a finire, lo vediamo finire tutti i giorni sotto i nostri occhi, quindi non possiamo dire che sia un mondo reale. Ecco, quindi attraverso la mistica io riesco a realizzare e portare a compimento tutto quello che la scienza aveva cominciato. Quindi attraverso questi vari stati io giungo all'esperienza del divino, la punta apice, adesso non vi faccio tutto il passaggio perché sarebbe troppo lungo, ma il punto apice della ascesi mistica è l'immersione nel divino. Dobbiamo arrivare a questo punto da immergerci nel divino, appunto tale da dimenticare completamente il mondo terreno, da non sentirlo più, da non vederlo più, da non interessarci più, essere totalmente fuori. Cosa che evidentemente si può arrivare. Che è diverso perché non c'è il divino immediatamente. No, è sempre molto difficile fare i confronti perché sono contesti molto diversi. Ci sono molte affinità, anche con il cristianesimo possiamo trovare delle affinità, ma poi il contesto locale è talmente diverso che non si riesce a stabilire proprio un rapporto di uguaglianza, è molto difficile. Non farei mai dei confronti così stretti perché sono un po' dubbi, insomma, sono un po' arbitrari. E quindi dicevo che attraverso questa forma a queste forme mistiche si può arrivare, cioè loro ritengono di arrivare all'esperienza diretta del divino. A questo punto nasce il problema più grande. Cioè, questa immersione nel divino non si limita ad una esperienza, ad una forma di conoscenza, ad una partecipazione alla vita divina, ma diventa veramente una identità col divino. E questo è il punto fondamentale dell'induismo, è proprio questo: diventare l'assoluto, diventare l'eterno, uscire dal mondo dei sensi per diventare l'eterno, per diventare l'infinito, per sottrarsi alle condizionamenti del tempo, dello spazio, a tutti i condizionamenti, per sottrarsi al dolore, perché a quel punto non c'è più la percezione del dolore, sottrarsi alla felicità, sottrarsi a tutto, insomma, quello che appartiene al mondo sensibile. Ma questo è possibile solo se io mi identifico con il divino. E questa identificazione con il divino si esprime in formule semplicissime, ma molto, molto, molto sintetiche e molto profonde. Io sono il dramma. Questa è l'affermazione fondamentale, una delle affermazioni. Io sono il tutto, io sono questo universo. E tante cose, tante affermazioni di questo genere che vogliono appunto esprimere non soltanto la conoscenza, l'immersione, ma l'identificazione col divino. E questo è il punto più discutibile, il più importante, il più significativo, il più rappresentativo dell'induismo, ma certamente il più discutibile. Io vi leggo soltanto, per darvi un'idea di questa cosa, pochi versi cantati, proprio riportati nell'Upanishad, cantati da uno di questi, non so come chiamarli, di questi saggi, di questi mistici che hanno raggiunto o o dicono di aver raggiunto questa identità con la realtà divina. Guardate, non si può mai parlare di Dio, perché Dio non esiste a questo punto, è solo il divino, cioè una forza divina che permea tutto l'universo, che permea tutta la realtà, ma è una forza impersonale, non è Dio. Quando noi diciamo Dio intendiamo una realtà personale, per noi questo non esiste, questa realtà personale, è impersonale, una forza divina che pervade il mondo. Ora bisogna identificarsi, come dicevo, questa forza divina. Chi si identifica raggiunge l'autorealizzazione, e questo autorealizzato è il cosiddetto liberato in vita. Questo è liberato, è quello che veramente ha raggiunto la liberazione. E bisogna raggiungerla in vita, questa liberazione, non nell'altra vita. Perché se io non la raggiungo in questa vita, continuerò a reincarnare. Solo raggiungendo l'identità col divino, io mi libero da questo mondo e entro nell'immortalità. Altrimenti non ci entrerò mai, continuerò a reincarnare. Anzi, le Upanishad sono molto severe su questo punto e lo dicono ripetutamente. O lo raggiungete in vita questa liberazione, o continuerete a tornare nel mondo del dolore, della miseria, della sofferenza, della morte, eccetera, per sempre, finché non avete raggiunto questa identità, questo essere il tutto. Allora uno di questi liberati, liberati in vita, scrive la sua esperienza, la scrive in versi, e dice così: pura intelligenza, sempre beato io sono. In me ogni cosa è nata, in me soltanto ogni cosa dimora. Io stesso sono quel Brahman, Brahman, Brahman come si vuole, uno senza secondo. Io sono grande, io sono questo grande e ricco universo. Io sono l'antico, io sono l'eterno, sono lo spirito, sono il Signore d'oro. Io ho infinito potere, io sono il conoscitore. Al di fuori di me non c'è altro conoscitore. Io sono imperituro, sono libero dal bene e dal male. Questa è la cosa tremenda, adesso ci tornerò. Sono libero dal bene e dal male, sono libero da nascita, senza corpo e senza mente. Vuol dire che sei liberato da tutto il complesso psicofisico, non ha né corpo né mente. Colui che così ha trovato nelle profondità del cuore il supremo Atman, cioè lo spirito assoluto, e si è identificato con esso, è libero da essere e da non essere, cioè è l'assoluto. Ha ricevuto la liberazione e la libertà dell'assolutezza, come dicono appunto questi testi, ha avuto la ricompensa dell'assolutezza. Quindi il liberato, cosiddetto liberato, cioè colui che ha raggiunto questa identità, si appropria le qualità e le potenze stesse dell'assoluto. Si riconosce il potere di dominare la realtà, si sente totalmente indipendente dalla realtà empirica, sciolto da qualunque vincolo, anche dello spazio e del tempo. Ma soprattutto quello che ho sottolineato parecchio, di cui ho parlato molto in questo testo, perché è una cosa che un pochino affligge tuttora la società indiana, è proprio questo fatto che quest'uomo superiore, perché questo è veramente il superuomo, è al di là del bene e del male, cioè non è più soggetto delle leggi morali. Però questa è cosa molto grave, perché si suppone che quest'uomo è arrivato a questo limite divino, a questo livello divino, non compie il male, cioè possa fare solo il bene. Questo poi è smentito totalmente. Non è vero, può fare il bene, può fare il male, questo lo dicono loro, li cito tutti. Adesso non li voglio cercare perché non andrà troppo per le lunghe, ma cito molti autori indù che riconoscono questa cosa. Cioè il liberato, sì, ha raggiunto un alto grado spirituale, ma però è sottratto le leggi del bene e del male. E al di là del bene e del male, come è stato poi ripreso dalla nostra filosofia occidentale dell'Ottocento, è al di là del bene e del male, non è più soggetto a sanzioni morali. Ed è scritto, ed è citato, l'ho citato, una frase molto significativa dell'Upanishad, che descrivendo la vita di questo uomo liberato dice che per lui, anche se uccide suo padre e sua madre, per lui non è peccato, proprio perché è sciolto dalle leggi morali. Non è più soggetto a giudizi morali. ritengono che questa sia una cosa molto negativa, nel senso che questi uomini superiori, sottratti a queste leggi, possono fare quello che vogliono, mentre relegano tutto il resto dell'umanità che non ha raggiunto questo livello, evidentemente a un livello inferiore. Sono considerati essere inferiori perché non hanno raggiunto questo livello. Quindi questo crea delle tensioni molto gravi anche oggi nel mondo di tu. E queste le ho viste da vicino, le ho sentite molto, le ho percepite fortemente, e per questo ci ho insistito e ne ho parlato molto anche con una certa passione, perché mi creavano molto disagio, perché altro è leggere e altro è vederle. Ho accennato qualcuno, non so a chi, non so se quella persona sia presente, per esempio, chi ha ucciso Gandhi? Uno di questi superuomo, che poteva fare il bene e il male, non volevo. È stato scoperto dopo la sua morte. E quelli che hanno eseguito il delitto, cioè che hanno ucciso Gandhi, sono stati condannati. Mi pare che sono stati condannati a morte, direi di sì, a morte. Invece lui, il grande spirito che aveva organizzato tutta questa cosa, che l'aveva promossa, che l'aveva preparata nei minimi dettagli, non è stato scoperto, si è nascosto. E tutto è stato scoperto dopo la sua morte. Ma un indù mi ha detto, è vero, l'hanno scoperto dopo la morte, ma se l'avessero scoperto prima non avrebbero potuto toccarlo, perché lui è di fuori del bene e del male e non è più soggetto alle leggi morali. Quindi per lui non era colpa. E quindi questa è una cosa molto grave, insomma, che non è vero che fanno solo il bene, possono fare anche il male, fanno quello che vogliono. E quindi questa diventa una forma di, in un certo modo, una forma di oppressione, anche grave. Cioè questa ascesa mistica, per certi aspetti molto appassionante, ma sicuro che è appassionante, uno si lascia prendere, insomma, da questo desiderio, da questa volontà di uscire dalle condizioni terrene, questa volontà di creare un nuovo Dio, questa esperienza, insomma, di voler uscire dai limiti e dai condizionamenti umani, è veramente una cosa affascinante. Poi è affascinante lo sforzo, la fatica che fanno, in questo credo che abbia tutto da imparare, soprattutto in questo aspetto. Lo sforzo di impegnarsi in questa ricerca del Dio. Noi possiamo dire di Dio perché abbiamo Dio, per grazia di Dio, diciamo, abbiamo Dio. Per loro che non esiste Dio, che è la ricerca del divino, però ogni modo è una ricerca di una realtà che è al di fuori del mondo naturale, dei limiti naturali, e quindi in un certo senso è certamente appassionante. Però poi ha questi volti negativi da cui bisogna stare molto attenti, insomma, perché non si può provare fino in fondo, insomma, alla fine rivela anche il suo aspetto negativo. Sì, volevo trovare qualche citazione dagli autori indù, ma sono troppo lunghe, adesso non le trovo, non trovo quelle che volevo trovare. Ma in ogni modo credo che il problema sia chiaro, perciò ho chiamato problemi, anziché temi. Sono temi, ma sono temi che provocano dei problemi colossali, e quindi li ho chiamati problemi fin dal principio, anche se sapevo bene che erano dei temi della dottrina indù. Ma dei temi che immediatamente si trasformano in problemi. Cioè, si può accettare una dottrina come quella del Karma Samsara, di questo ripetersi infinito di vite, di questa sanzione impersonale? Si può accettare una cosa di questo genere? Non lo so, lo lascio dire a voi. E si può accettare questa ricerca del divino che mi porta al di fuori di tutte le leggi morali, che mi fa annullare le leggi morali? Molto discutibile questa cosa, insomma, quindi per me sono problemi, non sono solo temi, anche perché appunto, vedendo i visti e vissuti, so che cosa volevo dire. Quale impressione esercita questa cosa? Questi potenti, questi grandi spirituali, in realtà finiscono con l'opprimere la gente e con relegare il resto del popolo che non è arrivato a queste altezze, a relegarlo nelle forme infime, insomma, come gente che non conta niente, insomma, come gente che non ha più diritti, che non ha diritti. Porto con sé un altro, però adesso non vorrei andare troppo oltre perché forse vi siete sbagliati. Posso anche fermarmi a questo punto, perché mi premeva dire soprattutto questa cosa, in cosa consiste questa ricerca del divino, ma ancora un'altra conseguenza, se avete pazienza cerco di dirla rapidamente, cioè che non esiste più l'immortalità personale, che era poi l'oggetto della mia ricerca. Io volevo trovare un'immortalità personale, ma non esiste più. Perché anche il corpo sono totalmente separati, sono due entità distinte che non hanno niente a che fare tra loro, non hanno influenze reciproche. Lo spirito è solo spettatore, non partecipa alla vita. Questo bisogna spiegarlo perché è una cosa che ha radici molto antiche. Lo spirito si attacca al corpo per un errore, per sbaglio, quindi la vita individuale è un errore, nasce da un errore. Dal fatto che lo spirito perde la coscienza della propria natura divina. Perdendo questa coscienza si aggiunge ad un corpo e dà origine all'individuo, alla vita individuale. Allora la vita individuale è il risultato di un errore, di una ignoranza, dicono, ma non è esatto tradurre ignoranza, perché il termine sanscrito che è avidya non vuol dire esattamente ignoranza, vuol dire non conoscenza. Cioè l'anima non ha più conoscenza di se stessa e per questa sua ignoranza metafisica si unisce con un corpo e dà origine all'individuo. Quindi non esiste la persona nel senso che noi la intendiamo, cioè nel senso classico della parola, la persona che è composta di anima e di corpo, no? Esiste un corpo, esiste uno spirito, non hanno niente in comune, sono associati insieme ed è un'unione quanto mai indesiderata e risultato di questo errore iniziale. Allora è evidente che a questo punto non può esistere una immortalità personale, perché il corpo viene distrutto. Ecco perché io ho scelto questo tema, l'ho detto prima a qualcuno. Perché? Perché mi ha fatto impressione vedere sulle rive del Gange bruciare i morti, ma con un accanimento. Non è tanto il fatto del bruciare, questa è una cosa lecita, ma il modo con cui l'ha fatto. Con un accanimento tale che si voleva distruggere il ricordo persino della persona, sì, dell'appunto. Cioè con un accanimento non solo di distruggere, di allontanare il corpo, ma anche le ceneri vengono disperse l'aria o disperse nel cancio. Perché si cancella persino il ricordo della persona, perché il corpo non deve più esistere, il corpo è il nemico da distruggere. E l'anima cosa succede nell'anima al momento della morte? Si immerge, ritorna al suo stadio iniziale, cioè al tutto iniziale, alla realtà assoluta da cui si era staccata per quel famoso errore in cui aveva perso la propria coscienza. E allora ritornando in quel tutto si annulla. Come dicono sempre, l'esempio classico è come il fiume nell'oceano, cioè sparisce. C'è un'immortalità, ma impersonale, non personale. Cioè non c'è più nulla di personale che persiste. La persona è già scomparsa da prima, perché non c'era, non c'è mai stata. Ma poi scompare del tutto perché l'anima si perde in questo oceano. In questo oceano che è il tutto, che è l'assoluto, potete chiamarlo come volete, ma in un modo è un impersonale, una realtà impersonale. Anche questo l'ho sintetizzato in poche righe che mi sembrano, queste le ho trovate, non sono mie, mi sembrano molto significative. Che dice, in Oriente l'uomo rimane inghiottito da millenni nella speranza di essere dissolto. E questa è veramente la posizione dell'anima. Vogliono la dissoluzione, nella speranza di essere dissolto, di non rinascere mai più, ma di dissolversi nell'oceano dell'essere impersonale, così da essere completamente dimenticato e di dimenticarsi eternamente. Questa è la comunità di Filato. Cioè quella di con vera passione di trovare una forma di immortalità, e purtroppo devo dire che è stata delusa. Cioè c'è solo l'immortalità impersonale, l'immortalità personale non esiste più. L'essere viene dissolto, l'essere individuale viene dissolto, proprio per impedirti di rinascere ancora, perché non posso più rinascere, ho bisogno di sonno. E l'anima ritorna al suo tutto, quel tutto da cui si era distaccata per le cose. Ritorna